9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, oggi il Vengo Anch'io No Tu No di Enzo Iannacci sembra un po' meno motivato del solito, perché ieri sono arrivati i giudizi di Moody's, che ha scritto che l'Italia può farcela, quello di Fitch, che dicono ma sì, siete a metà del guado, nel 2013 le cose andranno meglio. Si è capito dunque perché al meeting di Rimini il presidente del Consiglio Mario Monti prima e poi il ministro delle attività produttive Corrado Passera avevano preannunciato il fatto di vedere una luce al fondo del tunnel, e insomma i mercati continuano a incorporare la fiducia nei confronti della capacità della BCE di tenere fede all'impegno di procedere a nuovi programmi di acquisti di titoli euro deboli. Per questo lo spread resta basso, verso la soglia 400 e qualche cosa, invece di tornare verso quella minacciosissima del 500 e qualche cosa. E si può contare sul fatto che questa dovrebbe rimanere l'atmosfera, a meno di qualche dichiarazione dirompente dalla Germania, ma fino al 12 settembre, quando i giudici della Corte Costituzionale tedesca, gli 8 giudici della Corte Costituzionale tedesca, dovranno prendere la decisione sulla conformità costituzionale o meno del meccanismo eurocooperativo, l'ESM. Se questa è l'atmosfera, noi torniamo a occuparci però del tema decisivo per la mancata crescita italiana e del tema decisivo sul quale è aperta un'annosa polemica tra chi sia il detentore della virtù: lo Stato, che dice di essere la virtù, i contribuenti, che oltre a sentirsi la morale da parte dello Stato devono poi farsi i conti con la crescita pretesa dello Stato. È ovvio che parliamo di tasse oggi, e non mancano gli argomenti per farlo. Il primo è quello della chiarezza con cui si è avverato, o pare che si stia avverando, un nostro timore. Il timore che abbiamo più volte richiamato nelle trasmissioni che abbiamo tenuto dopo il sisma che ha colpito le province di Modena, di Ferrara, è stato quello che lo Stato non capisse la serietà di un evento che aveva investito per la prima volta un'area ad altissima intensità di impresa e di manifattura. E più volte vi abbiamo parlato delle ordinanze per la rimessa in sicurezza degli impianti, ci siamo occupati più volte di una incapacità di discriminare i tempi per consentire a chi altrimenti rischia di essere tagliato fuori dagli ordinativi di alcuni settori di mercato nel far ripartire la produzione. Tutte considerazioni che restano purtroppo pregnanti in vista della ripresa alla fine di questi ultimi giorni di vacanze. Bisognerà verificare chi davvero poi riesce a partire nelle aree investite dal sisma. Ecco, a questo si aggiunge il fatto che lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, ha richiarito che con la fine di settembre tutti i contribuenti delle aree colpite dal sisma devono tornare a versare le tasse. Da questo punto di vista lo Stato non ammette eccezioni. Le scadenze, come avevamo detto, sono solo state rinviate e adesso si tratta di mettere mano al portafoglio. E questo sarà l'argomento centrale di oggi, a cui ne abbiniamo un altro, visto che Monti e Passera hanno appena detto a Rimini che quella fiscale è una zavorra troppo pesante, che bisognerebbe mettere mano. Allora, come mai, domanda che ci porremo poi, le agevolazioni che intanto erano state previste per chi si è messo in regola con il pagamento degli aggravi pesantissimi fiscali disposti anche da questo governo, dopo quelli che erano stati risposti da Tremonti e Berlusconi. Come mai quei decreti attuativi non vedono la luce? Come mai non c'è altrettanta solerzia rispetto al voto dei decreti con cui invece al contribuente si chiedono cose in più? Insomma, il fondamento per il quale, dice Monti, l'evasione fiscale è uno scandalo così grande da pregiudicare l'immagine in Italia e costringe quasi a provvedimenti da guerra, queste sono state le sue parole. Ma il fondamento etico di tutto questo come può stare in piedi se lo Stato poi non tiene fede neanche alla parola che ha preso negli stessi decreti legge in cui appesantiva l'onere fiscale, e lo Stato poi i decreti delle agevolazioni invece se li tiene nel cassetto o non li scrive neppure? Ecco, questi sono i due interrogativi sui quali oggi la trasmissione ruota. Lo ricordo, il numero verde per intervenire è 800 24 00 24 e cominciamo dalla prima questione. Il fisco che si rimette in moto malgrado il sisma. Abbiamo con noi Vasco Errani, che è il presidente della Regione Emilia Romagna. Buongiorno presidente. Buongiorno. Giovanni Messori, che è il direttore di Confindustria di Modena. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Messori. Allora, presidente Errani, lette queste cose, lei ha dichiarato, ma oltre a ribadirci, che cosa pensa di questo? Istituzionalmente ha trovato qualcuno al telefono per tentare di capire se davvero non c'è alternativa al fatto che gli si chieda di nuovo a questi contribuenti di tornare a pagare come se niente fosse? La mia posizione, la posizione peraltro anche degli altri presidenti delle regioni coinvolte dal sisma, cioè Lombardia e Veneto, è molto chiara. Si deve intanto riallineare la scadenza, non è settembre secondo noi, ma novembre. Poi a novembre bisogna fare un altro provvedimento che riconosca il rinvio dei pagamenti, di tutti i pagamenti, alle imprese che hanno e continuano ad avere danni tali da avere problemi nella produzione, e ai cittadini che hanno le case inagibili perché non possono pagare l'IMU. È una questione di equità. Ho parlato con il governo, io sono convinto che il governo comprenderà questa posizione e rapidamente interverrà per promuovere questi diciamo azioni attraverso provvedimenti legislativi. Vedremo, è ovvio che tutti i rappresentanti istituzionali, prima naturalmente ho citato Ferrara, Modena, ma bisogna anche aggiungere Bologna, Mantova e così via. Mantova e Rovigo, sì. C'è bisogno di una specie di coordinamento permanente perché al governo capiscano che secondo me le parole di Errani sono le parole di una elementare ma fondatissima ragionevolezza, cioè la pretesa dell'Agenzia delle Entrate credo che sia una pretesa forse da attribuire al fatto che intanto il messaggio da dare è quello: non rinunciamo a un euro di gettito, ma a me pare una valutazione irrealistica dello stato delle cose. Errani, da quello che ha capito lei e da quello che verificate giorno per giorno nelle aree colpite dal sisma, la stima che fate voi è che la percentuale di ripresa delle attività ordinarie alla fine di questi giorni di vacanza, più o meno quale sarà? Cioè c'è uno stato di condizione produttiva che resta con quale intensità con le ginocchia per terra secondo voi? Guardi, dare dati e numeri continua ad essere una cosa difficile. C'è un elemento molto significativo e positivo che va a merito delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori che stanno insieme lavorando per una ripresa. C'è uno sforzo veramente straordinario. Naturalmente noi, come ha detto giustamente lei prima, stiamo parlando di un terremoto che per la prima volta ha colpito un'area così intensamente abitata da imprese, e imprese anche proiettate all'export a livelli di eccellenza, e stiamo parlando di un terremoto che si aggancia e purtroppo si innesta in una crisi pesantissima. Quindi il problema per noi non è solo quello di avere dal punto di vista del non pagamento delle tasse, interesse per chi effettivamente continua ad avere problemi, che è una questione essenziale, ma è anche fare contemporaneamente politiche di innovazione, politiche di ricerca, di sostegno al credito, di investimento, di governo di delocalizzazioni intelligenti che riescano a impedire la fuga delle imprese. Su tutti questi elementi stiamo lavorando. Certo, è molto impegnativa e molto dura, ma stiamo lavorando. Grazie al Presidente della Regione Emilia Romagna. La stessa domanda che ho fatto, l'ultima che ho fatto a Rani, la giro a Giovanni Messolo, il direttore di Confindustria Modena. Secondo le vostre stime e apprezzamenti, intanto nella vostra area, alla fine di questi giorni di vacanza, a me sono concesso che chi sia stato colpito così duramente se la sia potuto permettere, ovvio che la risposta è no, ma la percentuale di fermo delle attività produttive quanto resta ancora elevata nella vostra area? Guardi, è difficile, confermo quanto diceva il Presidente. Io conosco imprese che ormai, diciamo, sono tornate al 100% della produttività, altre che sono ferme a percentuali più basse. Lei capisce bene che nessuno ha fatto un giorno di vacanza, le condizioni in molte aziende di lavoro sono molto difficili, col caldo, poi ci verrà il freddo. Insomma, sono solo 3 mesi che è avvenuto un terremoto con danni senza precedenti e qui stiamo parlando di interrompere la sospensione delle tasse. È una cosa, io apprezzo molto l'intervento del Presidente Errani e del Presidente Formigoni e Zaia, mi chiedo solo come faremo poi a novembre, che mi sembra troppo vicino, a non innescare un contenzioso su chi avrà diritto a ulteriori proroghe e compagnia cantando. Uno Stato serio avrebbe dovuto dirci le tasse sono sospese fino a giugno 2013, allora andremo a vedere qual è la condizione. È inutile pretendere che a un cittadino a cui è crollato la casa, a cui è venuta giù la vita, andare a chiedere tasse perché quello non sarà forse contribuente l'ultima volta, ma poi in futuro non ce la farà più. Ci vuole più lungimiranza e più attenzione a questi problemi. Poi è vero, le risorse, grazie all'intervento anche del commissario che ha ascoltato tanto e che si è dato da fare, sono ingenti, ma non abbiamo cominciato a spenderle, quindi ci vorrà ancora qualche settimana, qualche mese perché i contributi arrivino e prima dei contributi arrivano le tasse. E come si vede, lo Stato è veloce solo dove gli pare e come gli pare. A me sembrano di elementare buon senso le considerazioni che ha svolto Messori. Noi fin dall'inizio, da questi microfoni, abbiamo sostenuto che il termine temporale per la sospensione dell'adempimento degli obblighi fiscali doveva essere molto più lungo. Fin dall'inizio si è capito che lo Stato non ci sentiva. Lo Stato è veramente convinto che ci siano dei furbi dietro la vicenda del terremoto. Questa è la nostra impressione. E si qualifica da sola perché ancora una volta viene da chi poi dispensa tutti i giorni alate considerazioni sul fondamento etico del dovere fiscale. Peccato che quando si tratta di declinarlo nei confronti dei doveri dello Stato, questi doveri dello Stato si liquefano, scompaiono, non ci sono. E quindi ora la pretesa è pagate l'IMU se non avete più la casa. Perché di questo si tratta, eh? Non è che nel frattempo la dovrete pagare. Allora, sentiamo da un'altra, da un'imprenditrice, Barbara Franchini, che sentimmo già nei giorni quelli caldi del sisma, un'imprenditrice di Correggio, quindi provincia di Reggio Emilia. Qual è la sua considerazione intorno a questa scadenza fiscale che riprende ordinariamente, innanzitutto, e poi secondo, come vede le cose su quello che è stato possibile fare intanto nell'ultimo mese per la ripresa delle attività? Buongiorno e grazie a Barbara Franchini. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a tutti. Allora, le tasse, lei è pronta a pagarle? Ma io, come le dissi già più di un mese fa quando ci siamo sentiti, grazie a Dio dei grossi danni in azienda non ne ho avuti, quindi la mia produzione è stata ferma solamente qualche giorno, diciamo che io sono pronta a pagarle, le ho sempre pagate, finora non ho chiesto nessuna sospensiva, però ho molti colleghi nelle zone invece più calde e veramente questo mi sembra l'ennesima dimostrazione di uno Stato che è in un altro mondo, cioè vive su un altro pianeta probabilmente, nonostante le diverse venute nella zona per vedere, non si sono reso conto di quello che è successo qui. Togliere questa sospensiva vuol dire, secondo me, uccidere definitivamente il sistema locale, voglio dire, e come a livello industriale è una regione, direi, che ha un apporto abbastanza importante al PIL, quindi non so come mai questa decisione era già prevista nella legge, nel decreto legge 74, poi trasformata in legge, però insomma la speranza che ci fosse poi una proroga a questa scadenza era abbastanza evidente. Come diceva anche il presidente Errani, il minimo che si può fare è allineare tutto al 30 novembre, ma comunque penso, e vivendo la situazione, che comunque il 30 novembre sarà comunque insufficiente, anche perché ci sono dei precedenti, voglio dire, su quanto riguarda le tasse e gli adempimenti, no? Non per ultimo all'Aquila le hanno sospese per 14 esatto. mesi e poi hanno pagato ciò che hanno sospeso, solamente il 40% hanno pagato in 10 anni. Quindi mi dico, perché non può essere fatta la stessa cosa qui? Come diceva il presidente Errani, non è un terremoto che ha colpito le imprese, come i giornalisti continuano a dire, è un terremoto che ha colpito una zona con un'elevata percentuale e presenza industriale e di imprese. All'Aquila non c'erano, quindi, o comunque ce n'erano meno, quindi non è che ha colpito le imprese perché le imprese sono cattive, ha colpito le imprese perché lì ci sono, quello è un territorio dove sono presenti. Quindi questo provvedimento veramente mi lascia sconvolta, non pensando poi ai privati, io ho dipendenti che sono in situazioni dove hanno perso tutto e sinceramente non so, già sono in ginocchio, si vedono dover ripagare le tasse, soprattutto in un momento dove non possono neanche usufruire dei servizi pubblici, perché loro stessi mi dicono: l'ospedale qui è chiuso, dobbiamo andare a chilometri, se vogliamo andare in un ufficio comunale sono chiusi, devo andare da un'altra parte, quindi non usufruisci dei servizi. E poi ora mi dici anche che però le tasse le vuoi. Diciamo che c'è un problema di tempi, dottor Giannino. Secondo me anche di percezione della realtà. Lo richiamo alla memoria di chi si fosse distratto, insomma, dopo il sisma. Noi stiamo parlando di un'area in cui ci sono oltre 65.000 imprese nell'area colpita dal terremoto, ci sono circa 770.000 abitanti, ma queste 65.000 imprese, con chi ci lavora, con i loro collaboratori, fanno quasi 2% del PIL nazionale, e in queste aree continuano a oggi a esserci quasi 14.000 strutture completamente inagibili, tra capannoni industriali, sedi di imprese artigianali, abitazioni, scuole, esercizi commerciali. Quindi i danni erano stati approssimativamente stimati in oltre 11,5 miliardi, dei quali quasi la metà, più di 5, al solo sistema produttivo, e sono più di 37.000 i lavoratori di 3.200 aziende, di queste 65.000 che intanto sono collocati in cassa integrazione. Queste alcuni numeri per capire di che cosa stiamo parlando, non di un'area di furbastri, capite, che dopo qualche scossetta chiede di non pagare le tasse. Evidentemente quello che ricorda Barbara Franchini sul fatto che altrove recentemente i doveri fiscali sono stati ben più ammorbiditi rispetto alla ripresa immediata del pagamento che richiede oggi l'Agenzia delle Entrate, come la vogliamo interpretare? Vogliamo interpretare che l'Abruzzo è più vicino a Bruno Vespa? Non lo so, vedete voi, ci deve essere un qualche meccanismo per il quale la difesa delle aree diverse del paese ottiene risposte diverse, anche quando qua ci sono due punti di PIL. Ammessori, invece, la domanda che faccio è: quanto era stato promesso in termini di abbattimento della burocrazia nelle aree colpite dal terremoto per le imprese, cioè le misure di semplificazione per gli adempimenti? Quelle almeno sono arrivate? Che giudizio dà? Sulla carta diamo un giudizio sicuramente positivo, c'è stato ascolto. È chiaro che nei prossimi giorni si entrerà nella fase applicativa, lì nasceranno tutti i problemi relativi alle varie eccezioni rispetto alle regole, e quindi speriamo che ci sia da parte del commissario straordinario, come c'è stata fino ad ora, un'attenzione su questi punti che riguardi anche tutti i sindaci, per cui è importante che ci sia una grande uniformità in tutta l'area e che la gente, le imprese sappiano, entro pochi giorni è stato fatto un vademecum anche dalla regione che stiamo studiando, sappiano esattamente come devono fare, a chi devono rivolgersi. Le cose devono essere spiegate in modo più chiaro possibile. Credo che però si stia andando verso la strada giusta. Lei sul fatto che Aquila e Abruzzo in un modo rispetto agli adempimenti fiscali delle imprese e dalle vostre parti diverso, che spiegazione darebbe? Ma guardi, io mi rendo conto che il mondo è cambiato mille volte rispetto ai tempi del terremoto dell'Aquila. Qui siamo in una crisi internazionale, europea, senza precedenti. Siamo in una fase recessiva di cui non si vede la fine, nonostante quello che dice Moody's, eccetera. È chiaro, questa era una zona che produceva più dell'1% del PIL nazionale, che pagava tasse, quei soldi mancano, ma ci vuole, come dicevo prima, lungimiranza. Se le pretendi prima le perderai per sempre, perché molte imprese, soprattutto le più piccole, dovranno chiudere. Se hai la giusta attenzione, la giusta pazienza, potrai fare, come è stato, un investimento in questa zona e tornare ai livelli non solo quantitativi ma qualitativi precedentemente al sisma. Mi permetta solo di dire una cosa: io credo che il governo ci dovrà ascoltare, sono, come dire, fiducioso, però lei sa come vanno queste cose, non possiamo sapere della proroga il 29 di settembre, come avviene sempre in questo paese. Il ministro Grilli metta il provvedimento dove vuole in Parlamento, ma dica una parola chiara e tranquillizzi che comunque la scadenza non sarà il 30 di settembre. Caro direttore di Modena, i suoi associati, come tutti i cittadini e tutte le imprese dell'area, possono contare sul fatto che ogni giorno io in trasmissione dirò: allora, la risposta per la proroga nuova rispetto a questa vergognosa richiesta di riprendere a pagare le tasse nell'area colpita dal sisma, io ogni giorno ripeterò questa richiesta al governo. Visto che il governo considera fondamento etico l'adempimento del dovere fiscale, egli per primo deve dare seguito alle sue parole per quello che riguarda i suoi doveri. Grazie, siamo storica Barbara Franchini, andiamo in pubblicità. Eccoci tornati dopo questa prima riflessione sui due pilastri intorno agli adempimenti fiscali della puntata di oggi. Prima riflessione: lo Stato che dice ai colpiti dal terremoto riprendete a pagare dal 30 settembre. Quando abbiamo adottato strategie diverse di dilazione per altre aree colpite dal terremoto e le condizioni erano diverse, erano migliori della finanza pubblica. Adesso non c'è modo e non c'è tempo di considerare l'impossibilità per voi colpiti nel patrimonio, azzerati nel reddito, di pagare invece le tasse sul reddito e sul patrimonio. Capite bene che uno Stato che ragiona così dà l'idea o di essere distratto e incapace di esaminare la realtà o di essere, o di considerarsi come davvero è, asimmetricamente al di sopra di un rapporto paritario rispetto ai suoi cittadini. Ed è questo il punto di fondo della questione tributaria italiana. Quando il presidente del Consiglio Monti ripete, e i giornali gli vanno dietro, che è una guerra che giustifica provvedimenti anche un po' forzati, queste sono state le sue parole a Rimini, al meeting di Rimini, quella contro gli evasori, per la gravità del fenomeno, dimentica, secondo me, come un presidente del Consiglio non dovrebbe, non potrebbe fare, che l'ordinamento italiano tributario pone oramai nei decenni lo Stato asimmetricamente al di sopra di un rapporto paritario di dovere nei confronti di quel dovere che chiede il contribuente. E questo avviene per le cose di cui tante volte ci siamo occupati, perché nel contenzioso tributario non c'è un giudice terzo, perché gli articoli 23 e 53 della Costituzione sono violati, perché in materia tributaria non è vero che si rispetta il vincolo dell'articolo 23 della riserva di legge assoluta, ma i doveri fiscali si modificano per decreto legge, per regolamento, per circolari, come non è rispettato l'articolo 53, visto che nelle imprese, cioè per le persone giuridiche, la pressione fiscale è in realtà totalmente regressiva, è il contrario di quello che c'è scritto in Costituzione. Più piccola è la tua impresa, meno esteso è il suo recinto, la sua catena di controllo proprietaria, meno finanziarizzato sei, meno possibilità hai di fare arbitraggio prima della chiusura del bilancio con i valori di libero dei tuoi asset, e quindi andrai meno in credito fiscale. Il risultato: le imprese più grandi hanno un tax rate reale di molte decine di punti inferiore a quello delle piccole e piccolissime imprese, l'esatto opposto di quello che c'è scritto in Costituzione. Potrei continuare molto a lungo, ma uno Stato in cui il Premier, che vuole rifondare la base etica del dovere fiscale, che dimentichi la parte che riguarda lo Stato e che si rivolga solo ai cittadini dicendo che il fondamento della diseticità sta solo nei cittadini, secondo me viene meno a un patto necessario. Per questo io vi invito ad andare sul sito www.fermareldeclino.it, ci sono dei punti che riguardano il ripristino dell'elementare certezza del diritto tra contribuente e Stato in materia tributaria. Vedete un po' voi se la pensate in quel modo. E ora andiamo a un secondo esempio, dopo quello che abbiamo fatto su pagate le tasse anche col terremoto, della asimmetricità dei doveri dello Stato, che poi quando si tratta di corrispondere alle sue promesse in materia fiscale dimentica di farlo. E vedremo perché. Sono con noi Giampaolo Tosoni, un collega del Sole 24 Ore che si occupa specificamente tutti i giorni esattamente di questa materia, che negli ultimi giorni ha scritto più volte ricordando come l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare entro giugno esattamente i decreti attuativi di ciò che il governo, questo governo, si era impegnato nel decreto Salva Italia ad offrire ai contribuenti in regola con gli accresciuti, gli appesantiti obblighi fiscali, delle agevolazioni. Eppure i decreti attuativi di queste agevolazioni non sono mai venuti, ed è qui con noi a parlarcene Giampaolo Tosoni, che ringrazio e saluto. Buongiorno. Buongiorno dottor Giannino. Ecco, sì. Che ci spieghi un pochino di quali agevolazioni si trattava e come mai i decreti attuativi non si vedono. Sì, volevo fare una premessa della sua interessante introduzione, che era seguente. La mancanza di decreti attuativi è un vecchio vizio di questo governo. Per esempio, in questi giorni si parla di una legge delega per la riforma tributaria e si parla della tassazione proporzionale del reddito di imprese, cioè anche l'imprenditore individuale verrebbe tassato in modo proporzionale, in modo di avere una asimmetria, come diceva lei, con le società di capitali. E se ne parla molto, anche il nostro giornale ne sta parlando giustamente, perché è oggetto di questa delega. Ebbene, questa norma la fecero già 5-6 anni fa e non venne mai fatto il decreto attuativo. Cioè, noi abbiamo una norma di legge che prevede già la tassazione proporzionale del reddito di impresa, cioè il fotografo, il salumiere potrebbe, cioè potrebbe pagherà le tasse al 27,50, pare, no? Secondo la legge delega. Ebbene, questa norma era già prevista, ma non è mai intervenuto il decreto attuativo. La sua domanda specifica riguarda un regime veramente rivoluzionario che aveva messo anche un po' di ansia ai commercialisti, perché di fatto lo Stato vorrebbe sostituirsi in una serie di adempimenti una serie di adempimenti che deve fare il contribuente. Ed era un regime che nasce col primo provvedimento Monti, quindi col decreto legge 201, nel quale era previsto che qualora il contribuente, ma parlo di contribuente persone fisiche e società di persone, quindi milioni di contribuenti, si fosse sottoposto ad un regime secondo il quale trasmetteva all'Agenzia delle Entrate tutte le movimentazioni bancarie o i pagamenti delle proprie attività mediante banca e in modo trasparente, e trasmettesse all'Agenzia delle Entrate tutta la sua documentazione fiscale, avrebbe avuto delle agevolazioni che sono ad esempio l'accorciamento nel periodo di accertamento 3 anni anziché 4, un'accelerazione nei rimborsi IVA, addirittura l'esonero dall'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta, che tanto lavoro sta dando alla finanza nei controlli che sta facendo in questa fase. E poi addirittura l'agenzia avrebbe fatto dichiarazione IVA per conto del contribuente, la liquidazione IVA per conto del contribuente, e addirittura per i contribuenti non in contabilità ordinaria, quindi quelli che hanno un volume d'affari, ma comunque un volume d'affari fino a 700.000 euro, cioè dire importi importanti, lo Stato avrebbe fatto perfino la denuncia di redditi, cioè la dichiarazione dei redditi. Quindi una serie di adempimenti che lo Stato, che l'Agenzia delle Entrate, si sarebbe accollata a fronte di questo comportamento trasparente da parte del contribuente, che consisteva appunto in due passaggi: primo, fare tutte le movimentazioni bancarie nei pagamenti e negli incassi della propria impresa, e in secondo luogo fare trasmettere la documentazione fiscale all'Agenzia delle Entrate. Doveva essere emanato un decreto attuativo entro il 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, quindi 3 giugno scorso, ma il decreto attuativo non è stato presentato. Qual è la motivazione, dottor Zanino? È semplice: questo progetto è troppo ambizioso, cioè immaginare che tutto in via telematica l'amministrazione finanziaria possa fare queste formalità, la dichiarazione IVA, addirittura la dichiarazione di redditi dei contribuenti, delle imprese minori, delle società di persone, è indubbiamente ambizioso, e credo che abbiano dei problemi per farlo. Infatti io nell'articolo lo citavo: i progetti si fanno quando sono realizzabili, altrimenti si crea solo della confusione, cioè si mette in atto una serie di operazioni o di attività o di attese anche da parte del contribuente, che poi non si riescono mica a fare, insomma. Anche perché, Tosone, diciamoci la verità, poiché sì, l'esercizio della scelta rispetto a questo regime che era proposto al contribuente doveva scattare entro settembre, con l'unico 2012, possiamo tranquillamente dire, non essendoci stati i decreti nella scadenza prevista a inizio giugno, che in realtà nessuno sarà in condizione di sceglierla mai. Rimarrà una grida manzoniana. Certo, bravissimo. La norma comunque è solo operativa nel momento in cui c'è il decreto attuativo. Senza il decreto attuativo la norma non esiste, è come la tassazione per trasparenza, per proporzionale delle imprese emanata alcuni anni fa. Mancando il decreto attuativo ovviamente non parte, quindi il regime non parte, anche se c'era da fare un'opzione per questo regime, e questa opzione era prevista in questo modello unico, in questa denuncia dei redditi. E l'opzione è prevista, cioè c'è un rigo nella dichiarazione di redditi che i contribuenti presenteranno entro il 30 settembre, in cui potrebbero fare una crocetta e scegliere questo regime della trasparenza. Tranne che non saprebbero come funziona, visto. Bravissimo, però poi non si potrebbe fare, in quanto ovviamente non si potrebbe realizzare. Esatto. Grazie a Tosoni, che ci ha spiegato come e qualmente in cosa consisteva questa bella promessa: mettetemi in regola, così vi scontiamo, vediamo un anno meno di accertamenti. Noi stessi, senza costi per voi contribuenti degli uffici pubblici, pensiamo ai vostri adempimenti. Palle, chiacchiere, distintivo, asimmetria degli impegni rispetto alle promesse. Di questa è fatta la mancanza di credibilità di un ordinamento tributario, perché c'è la parte grave, schifosa, che riguarda gli evasori totali, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte, finché il politico alla testa dell'amministrazione tributaria preferisce fare promesse che per valutazione realistica delle condizioni di amministrazioni tributarie dovrebbe sapere che è meglio non fare, perché poi tanto rimarranno articoli di legge privi di decreti attuativi, vedete che la questione è sono due facce della stessa medaglia. Io per questo mi rifiuto di dire che deve essere solo verso i contribuenti la rifondazione etica del rapporto fiscale, che non significa tifare per gli evasori, significa che ci vuole un realismo assoluto sulle priorità davvero realizzabili con la macchina fiscale. Da questo punto di vista c'è un maestro per noi, un punto di riferimento che in questi anni sentiamo sempre per non perderci in dibattiti generali di principio e di teoria in materia tributaria, ma per ragionare sulle priorità perseguibili. Ed è con noi il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza a Roma Tor Vergata, e gli chiediamo l'opinione sua su questi decreti attuativi per l'ennesima volta, che mancheranno e sono mancati, e su come invece rispetto a questo dibattito estivo del rifondamento etico delle tasse di fronte all'ordinamento che dice riprendete a pagare dove c'è stato il terremoto dal 30 settembre, che ne pensa? Intanto buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, è abbastanza triste sentire che lo Stato non è cattivo. Lo Stato, intanto, le conferenze stampa sul regime di trasparenza fiscale le ha svoltate, cioè sono andati avanti per 6 mesi a vendere mediaticamente la trasparenza fiscale. Poi non si sono fatti i decreti attuativi perché non si sapeva come farli, ma non li avrebbe saputi fare nessuno, perché l'idea che ci sono tutti quei benefici se vengono trasmesse le informazioni di cui dicevamo prima non considera che il problema sugli autonomi non sono le informazioni trasmesse, sono quelle non trasmesse, e che qualcuno deve andare a vedere e valutare se quelle trasmesse sono credibili. Cioè stiamo parlando sempre del solito problema dei cattivi, adesso non li possiamo più chiamare furbetti, li dobbiamo chiamare ladri, come se fosse la stessa cosa avere in casa un idraulico che ti accomoda lo scaldabagno e uno scassinatore che ti porta via la cassaforte. Grazie professore per fare questo esempio. Dobbiamo chiamare così perché non si può più dire, hai sentito come hanno bacchettato? Era chiaro che in televisione, io ho fatto un post su uno dei miei vari blog, come li dobbiamo chiamare, perché in televisione li chiamavano furbetti mica per dirgli bravi, anzi diceva sempre contribuenti onesti da una parte e furbetti dall'altra, che è una chiave di lettura socialmente lacerante, perché sì, chi è più onesto? Uno che paga tutte le tasse perché gliele chiedono. Se il Sole 24 Ore fa le ritenute a Oscar, immagino che o come dipendente o come autonomo gliele faccia, non è un onesto, è uno che viene tassato, uno che fa il pasticcere, a cui nessuno chiede niente, nessuno si presenta a valutare. Se paga il 50% è già molto più eroe, sono buoni tutti essere eroi quando qualcuno si presenta e gliele chiede. Quindi questa chiave di lettura non porta da nessuna parte e spacca solo il paese. Il vero problema è l'amministrazione fiscale che non va a chiedere, non si tassa sta gente con la gazzetta ufficiale, glielo vogliamo mettere in testa? Bisogna andare lì. Non è difficile, non è che ci vuole un master tributario di 8 mesi per capirlo. E lo so, ma bisogna allora che qualcuno si presenti a valutare quanto, che è quello che la pubblica amministrazione italiana non vuole fare, perché la pubblica amministrazione italiana oscilla fra due poli: la visibilità mediatica che abbiamo detto prima, dire qualcosa in conferenza stampa a livello istituzionale, l'immagine, e poi pararsi le perga a livello individuale, non mettersi in gioco a livello individuale. Siccome per stimare un guadagno in pasticcere bisogna mettersi in gioco, allora lo studio di settore che ce lo dice, ah guardi io non voglio sapere niente, lo studio di settore dice tot, lei questo deve pagare, ha ragione, ma faccia ricorso. Cioè abbiamo un'amministrazione pubblica completamente deresponsabilizzata dietro l'idea del governo della legge, e questi hanno fatto, che ha capito, non è un problema di cattiveria, no, è un problema di aspettative eccessive nei confronti della legge che mette, adesso la legge mette a posto qualcosa ma non tutto. Questo moderno feticcio, cioè adesso arriva il legislatore, mette a posto, cioè se uno si fa male scendendo le scale uno dice che fa la legge contro gli scalini scivolosi, c'è una follia collettiva di cui si fanno portatori anche i mezzi di informazione. Il pangiuridicismo è diciamo una malattia che va avanti da tempo, sì. E quindi semplicemente sulla trasparenza fiscale vai a vedere, batti come fanno in Germania. Ma lo sapete che in Germania danno di tutti i controlli tributari danno meno di 1 miliardo di euro, perché noi 12 di befera, perché gli uffici fiscali vanno lì, passano per strada, non è che non c'hanno neanche gli scontrini, dicono quanto hai dichiarato l'anno scorso, come stanno andando le cose, ti guardano e valutano. C'è il buon senso, il giuridicismo come lo chiamava prima, ha ammazzato il buon senso di questo paese. Tutto qua, ci abbiamo mezzo PIL ciucciato dall'amministrazione pubblica che è paralizzata. Tutto qua già non è per cattiveria, è paralizzata perché tutti non alzano una taglia se non c'hanno 12 decreti che glielo dicono. Cioè, ce l'avete presente quando c'è un provvedimento visto l'articolo, il comma, cioè, perché lo fai? Perché me lo dice la legge, no? Certo. Di fare cose opportune, inopportune, senza, è un problema di mentalità, capito? Non è questione Berlusconi, Coso, Bossi, Beppe Grillo, Monti, vattela a pesca. È un cancro mentale. Allora, intanto la interrompo, io rimarrei a ascoltarla veramente, farei lezioni quotidiane del professor Lupi in pillole di civiltà tributaria e di efficienza ed efficacia tributaria. Qui la questione è unire la civiltà dei rapporti tra contribuente e Stato, ma poi portare a casa risultati invece di far chiacchiere come noi facciamo, dividendoci, insultandoci, eccetera, eccetera. Poi i risultati restano largamente insoddisfacenti. Poi torniamo dopo le informazioni stradali che vengono adesso con la domanda che faccio al professor Lupi, intanto sulla questione che resta aperta dopo una bell'intervento secondo me dell'Agenzia Tutela della Privacy delle Informazioni sul Grande Fratello, perché qui dopo aver detto che tutti i dati di tutti i conti correnti entravano nella piena disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, naturalmente anche lì, passando dal dire al fare, c'è stato un impiccio. Lo vedremo tra poco, intanto strade. Allora, i Doors che tornano, ricordate le puntate che facemmo quando con i provvedimenti assunti da questo governo uno degli avanzamenti, degli strumenti necessari a giudizio del governo Monti, proprio perché occorreva intensificare la guerra all'evasione, che è tornato a dire devasta l'immagine internazionale dell'Italia. Dice: quando io vado ai miei partner e loro mi dicono ma con tutta questa evasione fiscale sei come la Grecia, non fai passi avanti. E ricordate che una delle questioni fu quella della piena disponibilità non solo dei saldi ma ogni singola operazione fatta sui nostri conti correnti, ed è una norma che poi è stata approvata. E all'Agenzia delle Entrate la piena disponibilità era calendarizzata per ottobre, quindi ci siamo, in parole povere, tra 5 settimane. Se non che poi prima di uscire dal suo incarico il presidente uscente dell'Autorità per la Privacy su questo ha fatto una battaglia secondo me più che comprensibile, più che giusta, ne parlammo anche con lui l'ha fatta poi davvero, non l'ha solo annunciata ai nostri microfoni, mettendo una serie di paletti sul trattamento di questi dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia delle Entrate non è riuscita ancora a venirne a capo con Sogei, cioè che è l'ottimizzatore informatico della pubblica amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, perché non si riesce per il momento a definire qual è lo standard per i flussi di questi dati e per la loro conservazione, archiviazione digitale telematica che sia a prova di pirateria informatica. Ergo, il Grande Fratello fiscale resta per il momento in stand-by e quindi posso dirvi che il professor Pizzetti, che è il garante uscente, nel tutelare, secondo me, comprensibilmente i dati, ha ottenuto un effetto che non credo desiderasse. Per quanto puntute fossero le sue polemiche, di rivelare come ancora una volta in materia tributaria all'enorme effetto mediatico di questo punto eccetera, poi uno va a vedere in concreto non succede per il momento nulla. Professor Lupi, crede che questo problema si risolverà? Siamo ancora una volta in presenza dell'enorme sproporzione tra il pangiuridicismo e l'articolo di legge che dovrebbe muovere il mondo, e il mondo che poi, se tu non hai le leve concrete, in realtà non si sposta di un millimetro. Granellino di sabbia per inceppare la macchina, però effettivamente io stavolta sto dalla parte dell'agenzia, nel senso che se i miei dati ce li ha il banco di fatte la pesca, banca, cioè, e sanno perfettamente e che quanto ho in banca, e i loro sistemi informatici saranno violabili come qualsiasi sistema informatico, perché non lo dovrebbe sapere l'Agenzia delle Entrate? Cioè, tutto sommato, questa levata di... Cioè, io ho un'idea del tutto, cioè, io ho un blog che si chiama organizzazionesociale.com, dove ho fatto un post proprio sulla privacy, che dovrebbe intervenire quando c'è l'abuso. Possibile che la gente ti telefoni all'ora di pranzo per venderti qualsiasi cosa e poi in azienda, se devi fare un contratto, devi firmare un modulo per il contratto e 4 moduli per la privacy? Cioè, invece di focalizzarsi sulla conservazione, dovrebbero focalizzarsi sull'utilizzazione. Adesso, così come ci può essere un dipendente della banca infedele, tipo Falciani, che poi ci può essere un dipendente dell'Agenzia delle Entrate infedele. Infatti è molto importante che nessuno possa accedere, ci vogliono le autorizzazioni, e la questione degli hacker è un problema generale di tutte le banche dati. Cioè, se ce l'ha una banca, perché non ce lo dovrebbe avere l'Agenzia delle Entrate? Cioè, non, a parte che io al grande fratello, cioè all'uso dei dati bancari per fare gli accertamenti tributari in modo automatico, sostitutivo della contabilità, ci credo poco. Cioè, comunque sono cose che vanno valutate, comunque quello che voi chiamate l'evasore, gli assegni li versa sul conto della nonna, dell'amico, esatto, del soprannome, del ragioniere, non certo sul di 85 suo. anni, quindi non è che ne veniamo fuori, non c'è l'arma finale. Però ecco, comunque questa questione della, io un pochino la ridimensionerei, perché insomma dell'Agenzia delle Entrate ci si può, cioè non è l'Agenzia delle Entrate non è una controparte che ti vuole fregare, cioè tutto sommato lei si preoccupa solo di arrivare al 27, questo è il dato tragico, no? Cioè, mentre con il fornitore hai un rapporto contrastato, ma alla fine un punto di interessi, di convergenza si trova, l'Agenzia delle Entrate non vuole avere grane, questo è il suo problema. Eh sì. Ma non è che ti vuole male. Cioè, tu sei un problema esattamente come il malato è un problema per il medico dell'ASL, come lo studente è un problema per il professore, studente che non capisce è un problema per il professore, come l'incidente stradale è un problema per i bimbi. Ma sei una rogna. Professor Lupi, ma come mai? Lei è un professore, no? Visto che qua siamo nell'epoca dei professori, però Sì. È evidente nel tono che usa che c'è, per così dire, comprensione ed empatia, perché cos'è una piccola impresa, come si fa, bisogna andare a interrogarlo e a chiedere invece che con l'articolo di legge. Come mai altri professori al governo a volte, quando parlano di queste cose, sembrano invece vivere un po' nell'empireo normativo del giuridicismo? Ma perché le scienze sociali in genere, gli economisti, cioè invece di studiare la società nel loro settore, gli economisti fanno la sociomatematica, quindi un grafico, pure se si deve dire che oggi fa caldo e fa 40 gradi, dobbiamo fare un grafico perché dobbiamo spiegare i comportamenti. I giuristi devono sempre mettere un dato normativo, cioè non guardano la gente per strada che fa la spesa, che fa i controlli, che fa le sentenze. No, l'iperspecializzazione allontana dalla realtà. Sono lontani perché le scienze, la crisi non è solo del diritto tributario, che praticamente lascia all'opinione pubblica informata le classi dirigenti assolutamente sole, ma proprio sono tutte le scienze sociali in Italia che non se la passano bene, proprio perché hanno cercato di imitare un po' troppo le scienze tecniche. E qui ci dobbiamo fermare, ringraziare il professor Lupi, ed è questa forse la cifra del limite che manca al consenso pubblico del governo Monti. Senza consenso pubblico io non credo che si rifondi il rapporto tributario, ed è questo uno dei pilastri da andare a guardare su www.formaledecrino.it. L'appuntamento con noi intanto è a domani, buon ascolto. Radio 24, la passione si sente.